fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. 2:05 di questa lunga notte, in maschera, quella di Halloween, 31 ottobre del 2018. La stiamo vivendo ovviamente a modo nostro, anche qui nella nostra Resto Radio Convento, a modo nostro perché è una serata particolare, anche perché solitamente ospitiamo festeggiati, ospitiamo sposi, spose, futuri sposi, future spose, e invece qui ospitiamo maschere, ospitiamo persone, ospitiamo anche nuove identità, perché tante volte ci vengono a raccontare di identità diverse che si sono create, di personaggi nascosti sotto i vestiti, e in questo caso abbiamo due grandi classici della notte di Halloween. Vi sentite un po' grandi classici nel vostro abbigliamento? Io sono una streghetta. Abbiamo una streghetta e... Una vampira, e dovete sapere che sono, insomma, molto riconoscibili, nel senso che sono veramente agghindate, abbigliate di tutto punto, con ogni dettaglio al proprio posto. E nella vostra vita reale invece siete? Disoccupata, ahimè. Mi interessava anche più il nome, però va bene. Pamela disoccupata. Bello, disoccupata come cognome, un po' importante. Vero? Da portare, però molto bello. Importante. Da dove, Pamela? Io sono dalla provincia di Brescia. Perfetto, e la signora vampira? La vampira si chiama Erika, fa l'impiegata e abita a Brescia. Abita a Brescia, molto Siamo bene. Siamo due sorelle. Ma davvero? Già. Sorelle, fantastico. Sorelle. Non l'avrei mai detto, posso dirlo? No, ce lo dico tutti, però già somigliamo. Non l'avrei mai detto. Bello uscire con la sorella. Vi capita spesso o è un'occasione particolare? No, siamo molto unite. Probabilmente, non so, ci sarà stata una tresca col postino, noi non lo sappiamo. Oh, donna. Una volta si chiamava parroco. Parroco? Mamma mia, escono gli altarini qui, Escono gli altarini. Facciamo? Ma mi piace questo rapporto, ma è da tanti anni quindi che vi frequentate anche fuori dalle mura domestiche? Sì, bene, abbiamo un bellissimo rapporto nonostante abbiamo qualche anno di differenza, però... Bello, così vi siete anche rubate dei morosi, vi siete... No. Che, no, che voi sappiate. Esatto. Che voi vi siate dette. Esatto, sì. Però vi siete litigate la camera sicuramente, qualche giochino, qualche bambola. La Barbie forse. La Barbie? Che Barbie avevate? Cosa c'era di Barbie? Tantissime. La più particolare che avevate? Quella incinta. Barbie incinta? Sì, che dopo l'hanno tolta dal commercio perché non si poteva più usare. Eh no, perché dopo 9 mesi ha finito il gioco. La Barbie incinta? Già. Ma sai che non, nemmeno me la ricordo la Barbie? No, guardiamo in internet intanto. E cosa facevi con la Barbie incinta? Fingevi di essere mamma? Si chiama Mami. Cerca Mami. Barbie Mami. Sì. Mami. No, perché mi piace anche, come dire, aumentare intanto il mio quoziente intellettivo e anche le mie conoscenze. Sì. Questa qui? Vedi che è incinta? Cacchio. Che c'ha la pancia? Ah, però. Ma c'era anche lui, chi è l'elettricista lì di fianco? È no. Ken? No. Ma va là, è un vestito. Ah, è un vestito, pensavo fosse un uomo, mi sembrava. Ma le lenti funzionano o no le tue? Eh no, è lontano, no, non c'è. Pensavo fosse un bambolo, un... Bene. No, è il vestito. Per cambiarsi, sai. Sì, beh, certo, cambi d'abito. E cosa facevi con la Barbie incinta? Perché non potevi fare, stavo pensando, fingere di fare la mamma, ma non puoi, perché ancora non ce l'hai il figlio. Vabbè, però va in giro con la pancia. Porta in giro. Esatto, poi nasceva il bambino, dopo si rimetteva sulla pancia, ma non c'era più il bambino. Era chiaro. Rimasta grassa, dai, mettiamo. Chiaro che... Beh, era anche un modo per trovare posto facilmente sull'autobus. Esatto, perché la portavi avanti la Barbie mamma e dicevi, ce l'hai, devo sedermi, giusto? Esatto. Giusto. Però sì. Torniamo al punto fondamentale della questione di questi minuti, che è uscito un po' involontariamente mentre in pista 2 si stanno strusciando beatamente. Saranno anche molto felici, siamo felici per loro, ci piace anche notare queste cose perché noi viviamo in un mondo separato ma allo stesso tempo reale, all'interno della pista. Ad esempio, volete ballare quello che stanno ballando in pista? Guarda, ve lo facciamo ballare subito, eccolo qua. Ma che c'è il mattarello, senti che roba. Vi sentite un po' in pista? Yes. Meglio per radio. Torniamo in radio, guarda, tac, vedi? Siamo già tornati in radio, tutto a posto, okay. Tutto come prima. Volevo sperare anche che voi vi strusciaste un po' e facevamo ascolti. Abbiamo già fatto prima, no? Ma volevo fare gli ascolti, quelli che si impennavano. Ci strusciamo io e lei? Serviva la musica, rimetto la musica da struscio? Dai, riproviamo con la musica da struscio. Non tira questa? Infatti questa. Guarda che struscio, io posso testimoniare lo struscio, Ci stiamo strusciando. Beh, l'ha detto Pamela, quindi io mi fido, eh. Bello, momento struscio ci sta, beh, momento d'ascolti. Dicevo però che noi siamo sul pezzo perché stiamo vivendo la festa live, ma parliamo anche di cose importanti e quindi, visto che la Pamela sta cercando lavoro, la aiutiamo a trovare lavoro. Esatto. Cosa sai fare? Tutto. No, non ti svendere, no. Così, no. Non ti svendere così. Io accetto qualsiasi tipo di lavoro, basta che sia un lavoro serio. Ho capito, ma la tua formazione tecnico, professionale, intellettuale ti porta a... Io sarei un'impiegata amministrativa, però. Ho fatto anche la babysitter, ho fatto la commessa, ho fatto un po' di tutto, la barista, quindi... Beh, insomma, però già impiegata amministrativa sarebbe di bello, solito sì. ce n'è, quindi buste paga, tutte quelle cose quelle lì. Quelle cose lì, sì. Mamma mia, no, cioè noioso nel senso, non noioso, però... pesante sto stare dietro te. Ma volentieri, guarda. Questo è uno spazio libero come fosse a casa tua. Se vuoi ti preparo una tisana, ti do un paio di ciabatte. Bravissimo, mi fanno male i piedi. Immagino che poi voi è un casino con tutte quelle scarpe lì. No. Lei è furba? Sì, furba, sì, vampira. La vampira è pratica. Ma di cosa si ciba, signora vampira? È ancora tradizionalista, sangue umano o ha cambiato un po', si è modernizzata? No, mi piace. Ma sangue bio magari, no? No, andiamo sul classico. Sul classico. Sì. Ma le piace come? Cioè ha un gruppo preferito o tutto quello che, insomma, che capita? Di solito quello positivo è meglio. Positivo? Sì. Meglio così, quindi gli zeri li lasciamo fuori. Gli zeri li lasciamo stare. Niente, sì. Quindi... meglio positivo come la positività nella vita. Bello. Peccato perché avevo già ricevuto molti messaggi di parecchi gruppi zero che, sentendo la voce molto affascinante della vampira e immaginandosi già la vampira sexy che va da sé, che è d'antonomasia, l'uomo va sempre lì, si erano candidati a farsi morsicare e quindi purtroppo dobbiamo escludere tutti i gruppi zeri, rimane spazio per tutti, per molti altri. Però non sei ancora arrivata quindi al biologico, non sei passata al biologico. Ma quando ti cibi? È notturno o diurno il pasto? Quando c'hai fame, che ci frega noi delle regole, giustamente dici, no? Che ci frega delle regole. Basta regole. Esatto, quello che ci sentiamo. Quando c'ho voglia, amici. Bello quel tatuaggio, cos'è? La rosa? No, è una chiave. È una chiave? Una chiave celtica. Ti mancava la rosa. Gli hanno detto di tutto, ma una non chiave non celtica. No, beh, sembrava un gambo sotto. Una chiave celtica, che significato ha? Questa diciamo che non ha proprio un super significato, mi piaceva il disegno e quindi l'ho fatta. Gli altri invece hanno un significato abbastanza. Altri, dove, cosa? Parecchi. Quanti? Quanto tempo hai? Vabbè, basta un numero. 11 ne ho. 11? Sono tanti, sì, ma tutti di quella dimensione pseudo piccola o anche no, più importante? No, c'è qualcosa anche un po' di più grande. Uno, dai, dicene uno. Quello più importante che mi sono sentita di fare è quello che ho sul costato. È una dedica a mio padre che non c'è più. Bello. Vuoi raccontarcelo in breve? È una frase. Ah, una frase, quindi dedica proprio scritta. E recita: grazie per vivere ancora in me. Bello, e bellissimo, poi... bellissimo. E tu hai qualcosa? No, ne sì, qualcosa sette. Ho visto. A 7? Sì. Fate gara? No. Sì. Mi ha portato lei sulla brutta strada. C'è un po' di rivalità, comunque c'è sempre un po' di rivalità. Avete fatto qualcosa insieme magari? Sì, questo, sister. È uguale. Immagino. Bello perché, come dire, il motivo è ricorrente, quello di una cosa che unisca due sorelle, ma il carattere e lo stile è invece originale e personale, quindi mi piace. Esatto, sì. Vabbè, poi io... frase qui. Però lei non ce l'ha di lì. No. Ah, cioè c'è da un'altra parte. C'è da un'altra parte. Okay. Poi ce n'è una qua. Insomma, un po' mi sta. Tutte frasi anche voi? No, ho una zampina in più che ci ricorda purtroppo che il nostro cane che ahimè è volato anche lui in cielo. Pertanto è Halloween, quindi possiamo parlare di queste cose. Sì. E poi ho un disegno che mi ha fatto la mia amica che sarà prossimamente tatuatrice. Quindi aiuto! Quindi prossimo passo, sì. E cosa sta dietro un tatuaggio secondo voi? Cioè qual è la vostra motivazione? Io quelli che ho sono tutti comunque o per mio papà o che mi ricordano comunque qualcuno, tranne questo che sì, mi ricorda mio papà, ma la calligrafia del mio cantante preferito che in una brutta giornata mi ha fatto questa dedica. Ah, però. Sì, esatto. E sarebbe? Questo. No, sarebbe il cantante. Ah, ok, Ermal Meta. Ah, non se lo conosco. Hai voglia. Vincitore di Sanremo con Fabrizio Moro, esatto. L'ultima edizione. E per te invece? Per me invece i tatuaggi hanno un significato un po' più particolare. Sono attimi che mi piace scrivere sulla mia pelle. Bello. E vengono fatti in un momento particolare della mia vita. Ok, bello, bello. Non voglio entrare nell'intimo, né lo, cioè proprio né lo voglio fare, quindi parlo per massimi sistemi. Il vostro ipotetico, magari reale, figlio barra figlia, tatuaggio barra piercing, aperte di mente, visto che già ne avete voi, o al contrario, track niet? Sicuramente, quello che vuole fare. Quello che vuole fare. Ma sì. Già dai 18, cioè dai 18 in su o magari anche prima? Anche a 15, anche a 15. La mamma. Esatto. Anche sì, tu, molto d'accordo? Aperta, d'accordo. Sì, sì. Quindi siete moderne fino in fondo. Esatto, penso sì. Che non sia un tatuaggio che fa una persona positiva o negativa. D'accordissimo, però vorrei sottolineare, ci tengo a farlo, come dicevate prima, la motivazione sta alla base di tutto. Sicuramente. Cioè non il ah beh, ce l'hanno tutti, me lo faccio esatto, anch'io. Bravo. Non il master. Sai che c'è un po' questo atteggiamento nelle adolescenza. Master, bah, bello. No. Se c'è anche, cioè, se anch'io sono della stessa campana, quindi lo dico in quel senso, se c'è una ragione di fondo, anche banale, ma che ci sia, come diceva lei, anche una frase del proprio artista preferito, va benissimo, basta che ci sia una motivazione, anch'io sono assolutamente d'accordo con voi. Avete un microfono davanti alla vostra bocca, volete dire qualcosa, volete salutare qualcuno? Ringrazio tutti per la splendida serata, per me questa è stata la prima volta e sicuramente non sarà l'ultima, organizzazione spettacolare e ringrazio anche il DJ che brava. Vi assicuro che ha una faccia molto simpatica, sì, passate a trovarlo. Esatto, brava, pensa sotto il trucco cosa c'è. Sorpresa. Pensa sotto il trucco quanta stanchezza c'è. Immagino. Però grazie per la faccia simpatica. No, che dai. Fa sempre piacere. Parla la streghetta, ha ballato anche col vocalist. Sì, quindi, sì, tanta roba. No speaker, scuso, usiamo i termini tu, corretti. Tu giocati, fa sempre bene. Io ci sono stata già un po' di volte al convento, mi sono sempre trovata bene, mi sono sempre divertita. E sicuramente è un locale che consiglio a tutti. E bene, è diventata avevo chiesto di dare un messaggio, è diventata una recensione su TripAdvisor, ma molto bene. Fa sempre piacere anche questo, no, siamo sinceri e scherziamo anche, esatto. Perché ho sentito altrettanta sincerità nelle vostre voci. E allora vi faccio tornare a divertirvi e a danzare un po' se vi va, o comunque a godervi la serata e le maschere, e vi auguro una buona serata e di ritrovarvi presto. Grazie, grazie, buon lavoro. A voi, buon lavoro. Ciao ciao ciao, ciao.